Blu Radio. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi è mercoledì, c'è Rock Wave, è un grande ritorno, sono molto contento. Stasera è ritornato Michele Tosoni in regia, era un po' di tempo che era assente. Il ritorno fa sempre bene, ragazzi. Voi siete dei ragazzi che fanno rock, i Rodless da Verona o provincia, state bene? Siete arrivati bene sì, qui sì, da noi? Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao a tutti. Bene, una bella proposta, forte, vigorosa. Parliamo un momento del motivo, come sono nati i Rodless. E innanzitutto ci presentiamo strumenti dopo strumenti, uno alla volta, vai. Allora parto io, ciao a tutti, sono Bomber, Manuel detto Bomber, bassista. Bassista. E vi presento anche il nostro Christian. Batterista Christian, che stasera purtroppo non sta molto bene, comunque vi saluta. Però è presente, noi. È presente, è fondamentale. Presentissimo, fondamentale. Io sono Gianluca, la chitarra ritmica. Io sono Sara, la voce. E io sono Loris, ciao Maurizio. Ciao Loris, quindi praticamente la formazione è questa qua. Dov'è nato il discorso, l'impostazione, l'idea di fare una band? Perché fare una band è una bella cosa, una cosa positiva, però ci vuole sforzo, ci vuole volontà. Non è vero, Loris? A questa domanda risponde Gianluca. Gianluca, vai Gianluca. Niente, è partita un po' un'idea malsana mia. Come malsana? Sì, niente, cominciavo ad annoiarmi a casa e ho preso in mano la chitarra, ho cominciato a fare strimpellare i primi accordi così. Chitarra acustica. Chitarra acustica, sì, chitarra acustica. Abbiamo cominciato a... diciamo la verità alle ragazze, Gianluca. Sì, vabbè. Le ragazze sono fondamentali. Il cuore infranto. Esatto, è la parte più fondamentale della cosa. Niente, praticamente ho cominciato con due amici, facevamo praticamente un trio acustico, abbiamo fatto un concerto nel 2008 questo o circa? Sì, 2008. Fatto il primo concerto, dato uno schifo. E com'era la formazione al primo concerto? Eravamo io e questi altri due ragazzi che non fanno parte della band adesso. Esatto. E già però comunque praticamente al secondo concerto che dovevamo fare il 26 dicembre in un locale che nelle nostre zone era abbastanza famoso, di Verona, sotto sopra, sì. E avevo chiamato lei perché la Sara, perché insomma il cantante mi ha tirato buca perché aveva l'influenza. Stava poco bene. Esattamente. Esatto. Tirato il bidone e gli ho detto: guarda, il concerto non lo salto neanche morto. Primo locale un attimo decente, non puoi perderti il concerto. Cioè, nel frattempo c'è Bomber che ride. Bomber ride. Chiedo scusa perché mi fa ridere il mio chitarrista che amo molto e gli voglio tanto bene. Mi piace quando si convince di quello che sta dicendo. Ma in effetti ha ragione. Comunque. No, beh, insomma, è arrivata Sara. Abbiamo fatto questo primo concerto, è andato anche discretamente bene. Però subito il giorno dopo ho silurato anche l'altro chitarrista, ho chiamato Loris. Proprio subito. Sei come Ian Anderson, dice Trotaltus. Non sto tanto. Ma come mai? Sto scherzando. Santo, hai deciso probabilmente nell'economia della band che andava così. Ma sì, perché comunque vabbè, l'altro chitarrista aveva una presenza scenica di catenaccio. Detta proprio sì, vabbè, aveva una presenza scenica diversa da quello che tutti aspettavi. Esatto. Poi conoscevo Loris, eravamo in compagnia insieme ancora quando avevamo 14 anni, poi motorini. Se ti ascolti. Nel frattempo c'è anche Cristian, mi piacerebbe far capire che sta facendo imbecille. Cristian si è un po' defilato perché ha la tosse, però è libero. È una scusa in realtà. Niente, insomma, abbiamo fatto sto concerto, è andato bene, abbiamo cominciato noi tre, come sempre, come trio acustico. Come trio acustico, è importante. Trio acustico, sì, trio acustico, cover italiane, quindi Ligabue oppure stranieri quali? E stranieri, Jefferson Airplane subito. Dopo parleremo di Jefferson, un grande amore del sottoscritto. Anche Red Hot. Mica tanto facile fare i Red Hot. No, ma li suonava lui perché è ancora più bravo di me. Gli Incubus. Abbiamo fatto dei pezzi. Sì. Quelli piacciono un sacco. Quelli che piacciono a te. Sono tosti gli Incubus. Decisamente tosti. Non è mica semplice suonare i Pearl Jam. In ogni caso quel genere, un po' di grunge, un po' di altre cose. Esatto, e da sto trio acustico qua, poi un giorno ci siamo guardati e abbiamo detto qua dobbiamo... trio acustico va bene fino a un certo punto. Bisogna allargare la formazione, abbiamo cambiato vari batteristi. E fino è arrivato Christian. Cosa hai sentito del suono di Christian? Perché ti è piaciuto come batterista? Allora subito è arrivato, prima è arrivato Manuel. Manuel, bassista. Anche corposamente. Il bassista di solito è ben corposo, ben potente, perché a dare la... Sai che il bassista è quello che non si nota da fuori, ma dopo quello che in realtà... la funzione ritmica è fondamentale. Vabbè, certo, è importantissimo. E poi deve essere ben robusto per sostenere la band. Il nostro si vede e si sente. Allora, Bomber l'hai conosciuto, ti è piaciuto subito come suona? Sì, lui suonava in un gruppo metal della zona, tra l'altro anche discretamente. Ci avrei scommesso. Sì, è un po' metal. Ho cominciato, l'ho conosciuto tra l'altro insultando il gruppo metal dove suonava, perché perfetto, proprio non mi piacevano. Però li insultavi proprio? Sì, no, ma l'ho conosciuto, gli ho detto, ma sai che quel gruppo lì a me non piace proprio tanto? Non sapendo che io suonavo in quel gruppo. Grazie, ma sai che io sono il bassista. Non sapere pure le conseguenze. Poi l'abbiamo ascoltato al concerto, suonava da paura, e abbiamo detto, dai, magari insomma viene a fare un po' di prove così. Poi anche lui si è appassionato al progetto nostro e ha portato Christian, che era il batterista praticamente. Con lui già suonavo tempo indietro, facevamo una cover band dei One Apes, e mi è sempre piaciuto come batterista. Allora, visto che cercavamo batterista, ho deciso di chiamare lui, farlo entrare nel gruppo. Quindi praticamente diversi componenti sono stati sistemati e la band è cominciata andare. Sì, abbiamo fatto. Ma in realtà ci siamo chiamati a vicenda, perché Gianluca ha chiamato Sara e me. Io ho chiamato il Bomber e il Bomber poi Christian, per questa buona catena. Una catena praticamente. Sì, di varie conoscenze. Poi è stato bello perché abbiamo fatto subito, praticamente dopo due prove con il Bomber, abbiamo fatto un concorso dove c'era Gianni della Cioppa, che comunque che il vostro praticamente scopritore, il nostro mentore. Lo salutiamo, Gianni, infatti, della Cioppa. Ciao Gianni. E insomma, abbiamo vinto questo concorso proprio in sperata, come risultato. Sì, una botta di bestiale, una botta di fortuna. Esatto. Hai visto, mi sono fermato. Bravo, mi fa piacere. È stata da sposare. È stata una fortuna grandissima. E subito abbiamo vinto questo concorso. Dovevamo registrare un pezzo. E abbiamo detto, abbiamo dei pezzi, registriamo il disco intero. E subito abbiamo cominciato a lavorare sui pezzi che mancavano e abbiamo registrato subito. Dopo continuiamo a parlare, perché adesso apriamo la finestra come nostra consuetudine e scegliamo il primo pezzo da disco che avete deciso di far sentire da disco. Ma qual è? Il primo pezzo è il primo pezzo che abbiamo anche scritto, oltre che inciso, ed è Amber Morning. Perfetto, lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Sì. Grazie. Rockwave. Rockwave, l'onda del rock, l'onda del rock. Allora ripetiamo il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Il pezzo si intitola Ambermorning. È un pezzo potente, una bella chitarra svisata. Bisogna aprire il disco in una certa maniera, quindi bisogna dare forza, impulso. E dal vivo come lo fate sto pezzo? Beh, speriamo. Qua lo farete più tardi, ma dal vivo davanti a un generale, pubblico generale, dico. Generale, ma ancora più corposo, più potente, più bello. Dopo il discorso del live va sempre a influire nel fatto che nel disco viene registrato in una maniera, comunque sia nel live si tenta a dare sempre il massimo e sicuramente dal live risulta il doppio. Io vi ho visto al concerto che abbiamo di qualche settimana fa, eravate forti, cioè in una dimensione ridotta perché eravate in un palco ridotto, però la potenza c'era, e quindi è positivo. Certo. Comunque la situazione comunque era bella nonostante tutto, perché suonare in quel posto non è una cosa di tutti i giorni, insomma. Ed è stato positivo, c'è stata un'opportunità molto, certo, molto certo. Anche una buona risposta abbiamo visto, insomma, dal pubblico. Sì, ricordiamo che i ragazzi hanno fatto una specie di pre-concerto a James Taylor. Il grande James Taylor. Al Geox qualche settimana fa. Esatto. L'idea di questo pezzo come è nata? Assieme l'avete fatta assieme oppure chi l'ha scritto praticamente? Gianluca, sei sempre te? Beh sì, il discorso è nato proprio per sbaglio. Eravamo in sala prove un sabato pomeriggio, io, Loris, Sara e gli altri due del gruppo vecchio precedente, no? Precedente. E alla fine loro sono andati via. Non è arrivato nessuno nell'ora dopo che avevamo prenotato noi. E quindi avete continuato a suonare? Sì, abbiamo cominciato io e lui il riff e il giorno dopo il pezzo era finito. Sì, esatto. Chi lo fa l'assolo vero e proprio dentro? Lui. Lo fai te. Praticamente. Lui ti risponde praticamente. No, lui mi accompagna. Ti accompagna, sì, voglio dire questo. Lui mi sostiene. Perfetto. Quindi, e dopo ti butto per terra. Quindi il pezzo è nato in questa maniera. Ottima, secondo me è un'ottima apertura, perché ci voleva l'apertura potente, ci vuole un disco di rock, tra virgolette, anche se c'è anche il punk qua dentro. Sì, qualcosina dai punti di vista, tu provieni dal metal sì, può darsi che ci sia anche del metal un po' di tutto. Sì, io non lo sento, no metal, no, nel senso forse di potenza, forse di basso, sì. Un palo di potenza, sicuramente di siamo cinque persone che provengono da generi campi differenti, quindi forse anche questo ha aiutato a creare, certo, un po' il sound. Dopo è stato catalogato come Southern Rock, anche se noi non andavamo sinceramente a cercare questo. Quindi gli Ama Brothers, non gli amate? No, beh certo, amiamo assolutamente, a partire insomma dalla cantante, dalla nostra Sara, però è stato tutto un'influenza che ci siamo creati noi, insomma, tutti dalle cinque teste è venuto fuori questa cosa qua, questo CD, insomma, rock. Ok. Adesso abbiamo rotto il ghiaccio, sono le 22:13. Cosa facciamo alle 22:13? Suoniamo. Che cosa per iniziare stasera? Prego, Sara. Questa sera vi proponiamo il secondo brano invece live del CD, che è Crumbs of Difference. Bene. E ve lo facciamo sentire. Ok. 1, 2, 3, 4. Inside of me, I'm going to see the near. Fighting the tears that's running me, I hold all that I am. Just searching something in my brain, something I don't know. Time is passing and kilos, and I know that I'm still searching for. Difference, kill out my fears. The freedom that I Wave. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo primo pezzo live. È un pezzo che odora di blues leggermente, cosa dite? Siete d'accordo? Soprattutto in una versione così acustica. Sì, poi se, ancora se, peggio, se avete, peggio in senso positivo. Se avete la possibilità di ascoltarlo nel disco, il ritornello, l'inciso è molto rockeggiante. Sì, ma anche accattivante, diciamo. Accattivante, certo. Prende immediatamente. In una forma così prende un... Ma il blues ci vuole, blues, certo. Fa parte del vostro DNA, o sbaglio? Certo. Sì, questa sì, canzone ha una storia particolare. Dimmi, Loris. Ma questa è la canzone che ci ha fatto vincere il concorso che ti raccontavamo sì, prima. Esattamente. Noi avevamo un compito in questo concorso di fare una cover. Sì. Una cover e rifarla a modo nostro, che era... Messico e numeri di Iannacci. Ecco, Messico e numeri. Messico e numeri di Iannacci, sì. Figurati. È un accenno, dai forza, un accenno di Messico e numeri. No, no, questa era la nostra Messico. Questa era la nostra versione. Ho capito, la vostra versione. Hai capito, questa era la nostra... Solo che ci siamo accorti che effettivamente... Era troppo bella per essere solo Messico in nuvole. Ho capito. Allora l'abbiamo riutilizzata per fare questa cosa, per fare questa canzone. Bene, è una cosa positiva. Hai decisamente. E avete vinto il concorso. Abbiamo vinto il concorso. Vuol dire che avete rischiato, nel senso ottimo delle cose. Abbiamo rischiato, sì, perché tutti quanti cercavano di farla abbastanza fedele all'originale. Invece l'avete stravolta. Invece noi l'abbiamo proprio. L'avete proprio creata. Abbiamo invertito gli accordi. Sarà stato contento Iannacci praticamente. Perché sì. No? Iannacci è una persona che ha sempre creato, ha sempre rivoluzionato un po' di tutto, quindi secondo me sì. In ogni caso. Bene, abbiamo iniziato. Abbiamo ascoltarlo, magari. Abbiamo iniziato allora con questo pezzo live. E c'è Che odora di blues, come abbiamo detto, anche se giustamente Bomber diceva nel disco è un po' più roccheggiante, però il ritornello serve, è accattivante, serve per riempire, per riprendere, per prendere gli ascoltatori, certo, anche sì, se sì, non sì. È questo il vostro singolo, ne avete scelto un altro, ma il singolo è un altro, sì sì sì, e poi lo ascolteremo, poi l'ascolteremo esattamente. Cioè praticamente questo è, avevi detto che ha vinto il concorso, ma l'idea di questo pezzo come è nata, prima del concorso oppure così? È nata prima sicuramente, perché ce l'hanno detto un mese prima che dovevamo pensarlo, ma è nata in taverna da me. Direttamente sì. Da te? Sì. Come la facciamo, come non la facciamo? Come si fa un pezzo di Rodless nella tua taverna praticamente? Come nasce? Beh, allora a dire la verità è nata un po' così. Sì, eravamo nella taverna da lui, come la facciamo, come non la facciamo, come la facciamo. Abbiamo fatto miliardi di accordi per cercare di trovare magari la linea giusta. E Bomber cosa faceva? Il Bomber... lasciamo stare. Il Bomber in taverna di Loris non ci viene. Lo chiudiamo fuori. No. Alcuni pezzi sono nati in acustico, solo tra me, Gianluca e la Sara. Poi gli altri si aggiungevano pian piano. Sì, di solito nasce un'idea e cerchiamo di portare in sala prove il giro che... Il giro chi lo crea? Prima della sala prove. Gianluca. Lo crei te il giro, Gianluca? Sì, un po' tu. Cioè, io, lui... tu praticamente fai il canovaccio, Loris e te fanno il canovaccio. Sì. E poi gli altri ascoltano. Certo, dicono, certo. Dobbiamo far così, non dobbiamo nasce far così. Nasce tutto quanto da un'idea che poi prende forma, tutto si modifica, perché tanti giri di pezzi che abbiamo inciso erano nati totalmente diversi. Gianni Racciopa che funzione aveva avuto in questo disco iniziale? Ma ci ha incoraggiato a farlo, che infatti... Per un gruppo che è sempre stato da sala prove come noi all'inizio. È stato uno dei primi forse a credere proprio in noi e ci ha dato man forte per andare avanti con questo progetto. Ha dato a trovare qualcuno che a un certo punto ti dice: ragazzi, perché non rischiate? Noi siamo andati in banca a fare un mutuo. Ah sì, me l'avevi detto quando ci abbiamo visto qualche tempo fa. E poi raccontare una cosa molto bella, molto simpatica. Niente, praticamente rischiosa. Ho preso atto di quello che mi diceva Gianni, ci ho ragionato un po' su. E ho detto: vabbè, vado in banca. È andato al direttore, ha detto: direttore, vado in banca. Sì, sono andato là. Gli ho detto: mi servono dei soldi. Mi fa per fare cosa? Devo incidere un disco. Ma va là, non ci credo. Gli ho detto: veramente, devo incidere un disco. Allora abbiamo aperto un conto di gruppo. Eravamo io, cioè, che abbiamo io, Loris e Sara. Però questa cosa qua, comunque, ci crea ancora, cioè, ci tiene ancora più uniti. Capito? Certo, oltre tutto quanto, anche il mutuo. E con quei soldi lì siamo andati a incidere il primo disco, abbiamo fatto tutte le copie, ci siamo fatti tutto quanto, sì, fatto un patto col diavolo, sono fatto per 10 anni per 10 anni le banche insomma. Beh, lo so, però è stata una cosa coraggiosa e interessante, perché io posso dirti una cosa: la prima volta che sento che un gruppo, può darsi che altri l'abbiano fatto, però nessuno l'ha mai detto pubblicamente. È una cosa bella, secondo me interessante, cioè uno fa un investimento, nel senso, si tenta di fare un discorso o non incidere un disco. Vuol dire che avevi già l'idea che il disco doveva dava, doveva andare bene, cioè era una cosa positiva. Certo, ma noi il ragionamento nostro è, oltre al fatto che comunque la musica è la nostra passione primaria, e questo è fondamentale, è che comunque noi facciamo parte di una famiglia tra di noi cinque. Certo. E abbiamo creato un'azienda, no? Quindi ognuno ha i suoi compiti. E c'è chi va magari, non so, a prendere un concerto, chi va a fare questo, quell'altro, quest'altro. Certo. E si è creata questa azienda e ci piace gestirla anche così, no? Quindi c'è quello che tiene la cassa, quello che va in banca, che fa, che ti molla. Sì, sì, ognuno ha il proprio compito, esatto. Chiaramente portare avanti il discorso, il progetto ed è bello, che è musicale, sì, ma non solo musicale, chiaramente. No, infatti. No, ci crediamo tanto in questo progetto, cioè stiamo investendo anche tanto tempo, soldi e tutto il resto, però ma c'è la ci passione crediamo. Che conta. Beh, ovvio, se primis, non c'è la passione in primis, si può chiudere tutto. Quella muove tutto. Quella muove tutto, hai detto una cosa giusta. Come noi che siamo qua da tanti poco, anni, la stessa cosa. Parla. Le cose giuste, non le spara, le dice e chiaramente si capisce immediatamente. Ok, sentiamo un altro pezzo da disco adesso. Ti ricordi che traccia abbiamo scelto? Sì, allora la traccia che vi facciamo ascoltare adesso dal disco si intitola Lonely Man, che ed è una ballata che ha molto interessato i critici, l'hanno giudicata bene tutti quanti, e la sentiamo bene. Yeah. radio. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. E gli ascoltatori non lo sanno perché non ci sono le telecamere, ma i ragazzi stanno mettendosi d'accordo cosa suonare dopo dal vivo, sì, e la band, così si deve fare, si lo facciamo d'accordo. Dopo esatto, all'ultimo momento si decide, si deciso la Sara, ecco, appena deciso la Sara, tanto par cambio. Quindi abbiamo sentito questo pezzo molto accattivante. Qualche critico ha scritto che ha un riff blues che si avvicina al western. Io non sono proprio d'accordo. È western, non mi pare che sia tanto western sto pezzo qua. È molto blues. Blues e rock anni 70. Ecco, è anni 70, quindi a microfono spento abbiamo parlato dei Jefferson, un periodo melodico, possiamo esatto. dire questo, ecco. È un bel pezzo, un pezzo che poteva anche essere un singolo questo qua. Sì, noi in realtà per il singolo abbiamo scelto un altro pezzo più frizzante, però non era mica male neppure questo, secondo era me. Uno dei pezzi che ci è sempre piaciuto di più, cioè tra tutti quelli scritti e finiti probabilmente era uno di quelli che sentiamo più nostro tra tutti, certamente. Sì. Come l'avete inventato musicalmente, è stato un caso anche questo? Sentite te Loris, dove hai tirato fuori la sua magica taverna? È sempre la tua taverna. È vero, è stato in taverna, sì, io e te. Era in mansarda, certo, perché noi abbiamo due posti per comporre, anzi avevamo, adesso ne abbiamo uno solo. È un po' che non ci andiamo però, sì. Vabbè, con nostalgia ricordiamo. Questo o su in mansarda o giù in taverna. Ma è stato un riff semplice. Arrivo lì e gli faccio, Gian, senti questo, giusto? Sì. Mi fa, bello bello, aspetta che provo a tirar fuori degli accordi. Bene. E da lì è partito. Così è nato il pezzo. Poi quando ne ho sentito gli altri cosa hanno detto praticamente? Che schifo. No. no, ci è piaciuto subito. Dopo, logicamente, loro hanno portato, mi sembra, la strofa al ritornello. E abbiamo fatto la parte del ponte, insieme, quella questo. L'abbiamo lavorata insieme, sì. Spieghiamo per chi non sa cosa vuol dire la parte del ponte. Okay. È il casino delle band, perché cioè, cosa vuol fondamentalmente dire? Il pezzo è strutturato, no? C'è una struttura, quindi non so, strofa, ritornello, certo. Strofa, ritornello. Il ponte è quella parte che stacca dalle due cose con accordi inerenti, chiaramente non è puoi uscire dalla tonalità, certo, a fare. Certo, ho capito. E può essere uno slancio, può essere una cosa più soft. Però tante volte non riescono, è proprio difficile. Ho da E l'inserimento della voce di Sara, come riuscite a concentrarlo? Crei un pezzo volutamente perché la Sara inserisca la voce oppure no? Sì, la Sara ne faccio atto di questo, perché è sempre tutti i giri di voce che ci sono sul CD la portati da lei. Tutti fatti da lei, e noi quando creiamo il pezzo in sala prove, sì, con la band, lei arriva con il suo giro e lo mette sulla canzone, lo adegua immediatamente alla canzone. Riesce ad adeguarlo immediatamente, sì, al suo posto. Certe volte, comunque, anche per il problema della lingua, anche noi cerchiamo di adeguarci. Bene l'inglese, sì, no, certo, però. Cerchiamo sempre di venirci incontro, insomma, anche un po' per sì, o capito. Si adegua lei o cambiamo un po' magari qualche ritmica nostra. Ho capito. Però, quindi un discorso di, cioè, un continuo evolversi, un continuo certo. costruire, certo, cioè, certo. Ogni pezzo deve essere costruito, deve essere provato, e dopo, finché la prova va bene, poi quando avete deciso siete andati in sala di incisione e avete, è stato un'incisione tutto ad un pezzo, cioè il pezzo l'avete inciso immediatamente, poi ci sono state delle interruzioni, così ti stop un go, delle fermate, poi riprendere. Anche dal punto di vista economico, visto che lo studio costava. Costa. No, a dire la verità, in studio siamo arrivati che avevamo i pezzi ben chiari. Già tutto pronto. Perché era un po' che li suonavamo e tutto quanto. Quindi li avete già provati anche dal vivo questi pezzi? Sì, prima. Sì, certo. Solito... Erano pezzi che portavamo fuori da un po' di tempo. Forse l'unico che non abbiamo portato fuori spesso e che abbiamo direttamente registrato in studio è stato proprio il brano proprio che abbiamo scelto come singolo. Ho capito. E proprio perché è stata la novità fresca, no? Prima invece erano tutti pezzi comunque già rodati che suonavamo in giro, perché mica sempre fanno, cioè succede delle band che scelgono una via opposta, cioè praticamente i pezzi che sono nuovi non li fanno mai eseguire dal vivo e li fanno seguire dopo, quando il disco è già uscito. Invece voi avete fatto un percorso contrario. Noi abbiamo guardato la risposta del pubblico, di chi ci seguiva, se piaceva, anche perché era il primo disco, dovevamo capire se la cosa andava o meno. Quanti pezzi erano già a disposizione in un primo disco? Avete selezionato poi questo EP oppure avevate altri pezzi pronti lasciati nel cassetto? Beh, avevamo praticamente i pezzi pronti, erano quei sette che abbiamo scelto dal disco. però stavamo già lavorando comunque dei pezzi nuovi, infatti abbiamo finito di registrare a gennaio del 2011, e già a febbraio avevamo già due pezzi nuovi già pronti e tanti altri giri che poi entreranno nel disco che stiamo incidendo adesso. Ho capito, diciamo... quindi sempre in continua evoluzione, non vi fermate mai, continuate sempre a creare. Certo. Chi si ferma è perduto. Giusto, hai ragione Bombe, chi si ferma è perduto. Visto chi si ferma è perduto, adesso sogniamo, adesso il batterista è ritornato. Arriva, sei ancora vivo. Cristian è ritornato, la tosse purtroppo... porta a degli scompensi da parte mia, lo stesso che ce n'ho anche io stasera, però Cristian, però bisogna andare avanti, bisogna suonare lo stesso. Certo, chi si ferma è perduto. Chi si ferma è perduto. Che cosa adesso, ragazzi? Allora, dato che prima abbiamo parlato di Jefferson Airplane, no? Adesso vi presentiamo una cover. Mi devo alzare in piedi allora. Un pezzo storicissimo, perché uno di una, cioè uno della mia generazione, Somebody to Love, Somebody to Love. Esatto. E Grace Lee è lontana, però può essere ripresa, può essere riamata in questo momento. Vai. When the truth is found to be a lion and a joy feeling you desires, don't you want somebody to love? Gonna you need somebody to love. We do love somebody to love. Cause you better find somebody to love. When the gun is gone, che bella, vecchi amori, Paul Kantner e Christy, che sono gli autori di questo immortale pezzo, possiamo dire questo, Sara? Certo. Bombe ha suonato divinamente, Christy dava l'apertura ritmica assieme al Bombe, poi Gianluca e Loris le chitarre e poi la voce di Sara che chiudeva il cerchio. Ah, sì. Da Sui Resti Pilo 1969, quindi molti anni fa. Pezzo magico. Non eravamo neanche nei pensieri dei nostri genitori. Esattamente. In quel periodo lì. Io sì, da un po' di tempo anche. Francamente, pezzo meraviglioso. I Jefferson sono sempre stati un gruppo meraviglioso, sì. E hanno fatto le cose splendide. Certo. In ogni caso, un bel omaggio, secondo me. E io mi sono chiesto, quando ho sentito questo pezzo, quando sono andato a vedere al Jago e voi l'avete suonato, ma è un gruppo così giovane riesce a recepire un messaggio così importante da un pezzo, da un gruppo simile che chiaramente è molto distante dalle vostre generazioni? Ma secondo me è tutta una questione di ricerca e di passione per la musica, perché io per esempio, per come la vivo io la musica, sono partito magari dai classici quando ho cominciato a dire magari provo con il rock, no? Partivo proprio dai contemporanei, quindi mi fa un po' ridere, Ligabue. Così, e poi comincia a tornare indietro. e indietro, indietro, indietro arrivano i Beatles, arrivano i Jefferson, arrivano Deep Purple, le Zeppelin e i mostri sacri, i mostri sacri, poi torni indietro, vedi Elvis, certo. Eddie Cochran, così. Tutti quanti hanno iniziato da Elvis praticamente, e poi i gruppi gospel magari i primi anni 40, certo, ancora meglio. E tra la ricerca della musica, poi un po' l'ascolto io, un po' l'ascolta Sara, un po' l'ascolta Loris, un po' l'ascolta il Bomber, un po' l'ascolta Christian, e ci passiamo anche i titoli. È un onore anche omaggiare gruppi di tale importanza, sempre, sempre. Certo. Hanno creato della musica stupenda, sì, hanno cambiato proprio il modo di far musica, hanno scosso, esatto, le coscienze, sì, sì, sì. 68-69 erano stati, e anni per fortuna concerti. Che ci sono stati, è per fortuna che ci sono per fortuna che c'è il rock, esatto, è per fortuna che c'è il rock, il rock rimarrà sempre, almeno, esatto, sì, sì, no, è immortale, è immortale. Ok, andiamo avanti con il nostro discorso musicale. Allora, abbiamo parlato di questa cover dei Jefferson, e voi non avete suonato solo Jefferson, avete fatto altre cose. Io ho letto nelle biografie i Creedence Clearwater Revival. Come mai questo amore per John Fogerty e la sua band stratosferica in Italia ebbe avuto un grande, grande successo? Siamo andati anche a sentirlo. A Padova, John Fogerty, come gli è sembrato? Un mostro sacro. Un figo, veramente, bravo, personaggio. Bravo. Quanti anni ha? 70 anni? 60 quasi anni? Sì, no, più di 60. Quasi 70 anni. Sì. Mostro, cioè, ma proprio vedi, magari vai a vedere concerti di gruppi giovani che arrivano sul palco e non danno quello che danno quei, cioè un John Fogerty o un Ian Anderson dei Jethro Tull. Cioè, guarda lì che vecchietti, invece guarda lì come sì, sono. Sì, sono mostri, sono molto... ma veramente. Parla di vecchietti, Rolling Stones. Sì, esatto, fanno i concerti migliori, li fanno adesso. Esattamente, cioè, poi adesso celebreranno il 50° anniversario. L'anno prossimo, nel 2013, nonostante ci sono, almeno dicono che si Jagger e Keith Richards finalmente si sono specificati. Sai, perché c'era la famosa polemica che Keith Richards ha fatto il famoso libro in cui parlava di un certo tipo di life. Esatto, life, poi parlava non proprio bene di Mick Jagger. Poi si sono riappacificati, ma il rock vince queste cose. Sì, sì. Quindi Creedence, ma non soltanto Creedence, avete suonato anche le cose vostre dal vivo. Cosa date alla gente che vi ascolta musicalmente? Suonate in modo potente o avete qualche spiraglio di acusticità? Diciamo che lo spiraglio di acusticità si è aperto per suonare magari di più, perché il discorso perché dal vivo, live dal vivo è difficile alle volte da gestire sempre in tutti i locali, no? E però devo dire che l'acustico, cosa dona più povero, Sara? Dà un'emozione incredibile, nel senso che ci si sente di più, si ha un contatto diverso con il pubblico. È forse, a mio parere personalissimo, vero? È forse addirittura una cosa quasi più intima, più personale. Ma è anche un po' più difficile, o sbaglio, l'acustico, sì, secondo sì. voi? Qualsiasi sbaglio perché viene sentito. Esatto, subito. Qualsiasi sbaglio viene notato. Perché per con le chitarre elettriche, bene o male, si riesce a sopperire, a camuffare. Però dal vivo acustico è un po' più complesso. E ci vuole una sintonia speciale con ma come gruppo. Ha detto Gianluca prima, voi siete gruppo prima e poi siete suonatori, musicisti. Prima siete gruppo, quello è fondamentale. La nostra filosofia, insomma. Noi come ci trovi qua in radio, come ci trovi a suonare, come ci trovi al bar una sera, siamo tutti così, cioè, non cambia niente. E quando siamo lì finché suoniamo ci divertiamo come se fossimo in taverna da Loris, tanto per cambiare. La taverna da Loris è praticamente pazzi, sì, esatto. Il centro di tutta la vostra, il vostro andare musicale, no Loris? Diciamo che è l'input, è l'alfa della... C'è un'energia strana. Sì, è stato l'avviamento. L'avviamento. Una volta c'erano i cosiddetti garage dove si provava, adesso ci sono le taverne, va bene lo stesso. Infatti lì ci trovavamo in acustico. In acustico, esattamente. Allora, visto che avete molti pezzi live, ho sentito nei meandri, segniamo un altro pezzo live, che cosa? So che ho sconvolto la scaletta, ma non importa. Dopo la mettiamo. Originale, scegli tu. Quello che vuoi te. Facciamo un gioco. Lo faceva anche Elvis Costello nei suoi concerti, lo sapevate, no? Elvis Costello nei suoi concerti aveva una specie di ruota. E poi gli spettatori, i partecipanti ai concerti, siccome avevi Costello, aveva un sacco di un repertorio grandissimo. E sceglievano un numero, c'è, e lui sceglieva il pezzo da far sentire. Bello. Allora facciamo così, che dato che abbiamo iniziato con una cover del periodo 60-70, facciamo un'altra cover del periodo 60-70. Ok. Di altro genere. Di altro genere. Questi sono i Talking Heads con Psycho Killer. Ok. Thank you. fire. So don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, kiss kissy, fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. No, oh, oh. Psycho killer, kiss kissy, fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run. You can even finish it. You talking a lot, but you not say anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. So say something, why start it again? Psycho killer, kiss kissy, fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run away. No, oh, oh. Psycho killer. Kiss, kiss, say, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, better run, run, run, run, run, run away. Che bella versione allungata, riveduta e corretta. Sarà contento David Byrne, sicuramente sarà molto contento. Allora siamo fieri di questo pezzo meraviglioso dei Talking Heads, che li lanciò nell'universo, non soltanto anche commerciale. Sì. Questo pezzo ha proprio segnato la loro storia. Li ha fatti conoscere. Esatto, li ha fatti conoscere a tutti quanti. Grandissimo pezzo, versione bellissima da parte vostra, acustica sì, ma molto dilatata, molto fuori dagli schemi. Mi pare giusto così, perché le cover mica devono essere uguali. No, infatti alle siamo originali. Profondamente contro. Esattamente. Cosa, una volta si usavano le cover fatte pari di tornasole, cioè identiche. Sai, quelli che erano famosi in Italia, noi di Dick che facevano le traduzioni di Senza Luce, Sognando California. È diverso, come bisogna ravvivarle con. Ma mica lo facciamo apposta, sai? Ma mica, io sono contento di questo. A volte siamo del nostro. Sì, ma a volte. Perché dimmilo. Ci aiutiamo, no? Magari sbaglia qualcuno e allora lì scatta la particolarità, hai capito? La cosa bella dall'errore. Lo fermo, noi... fermo Loris. Ma che, fermo, no? Bello, bello, bello, bello. No, tiello il giro. No, no, ma succede anche in live, nei live succede. Qualcuno sbaglia, allora siamo pronti a cogliere quello sbaglio come particolarità, certo. E su quella particolarità lì ci giochiamo e poi viene fuori la, la diversità che porta la cover ad essere personalizzata. Ma è giusto sbagliare suonando, perché che live è se si sbaglia? Si deve sbagliare suonando, certo. Può capitare, mentre nel disco è un po' più difficile, non si deve sbagliare perché la gente ascolta, ma in live è un'altra cosa. È bello del live, insomma, bello del live, cioè non è non troppo, no, sì, insomma, si sai. Non farlo apposta, però esatto. Se capita, ecco, capita non di... da fermarsi. Sì, quello no, sì. No. Infatti di solito quando suoniamo in live io suono sempre con il bomber dietro e colleziono coppini. Magari becco la, non so, faccio un'ottava sbagliata o... quando fa troppo il bravo io lo da dietro. Sì, Gianluca, coppini qua. E calci nei stinchi, quindi ma lui è la fase ritmica, lui sì, no, certo, no, ma anch'io il problema farlo. È che esatto. Magari a volte sbaglia lui, solo che come fai a permetterti di dargli un coppino a lui? Non puoi, è il doppio di te. Salutiamo Alberto Prisco. Grazie, salutiamo Mitico Alberto Prisco, che vi ha voluto qua stasera. Che ringraziamo, infatti, grazie. Artistico. Grazie. E anche Gianluca Merlin, che vi ha voluto Gianluca. Un tempo fa nel suo programma. Vediamo, c'è un messaggio. Un salutone ai Rodless, ragazzi, fatevi onore. Gianluca, radio, radio RCS. Bene, RCS. Salutiamo Gianluca. Ciao, Gianluca. Bello, è stato positivo questa cover dei Talking Heads. Adesso facciamo una cosa di questo genere. Sentiamo un pezzo da disco e poi arriviamo al giochetto quasi. Sì. Ok. Allora, lo presento io ancora. Sì. Allora, il pezzo da disco invece è il pezzo più tranquillo che abbiamo scritto. Che avete scritto? Pezzo più soft. Si intitola Seeker of Gold. Ok. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Questo era il pezzo più lento, dicevi, ma non è proprio lento, è un po' un agitatino, cioè nel senso positivo, un po' mossa alla finale, quel giro di basso di Bomber che da un certo il Bomber peso. Ci sostiene tutti. Ora della l'hai fine. Sostenuto bene sto pezzo Bomber? Sì, ma mi è venuto bene, sono contento di quello che ho fatto in questo pezzo, in tutto il CD son contento. Sei stato soddisfatto? Sì. Sì, sì, molto molto. Ma se non ci fossi io. Esattamente. Ma hai avuto sei stato protagonista di questo pezzo perché te l'hanno consentito oppure è andato così? No, è come al solito, è nato così, è portato il giro Loris, ho portato la canzone Loris e dopo il pezzo richiedeva questo giro di basso e questo fatto proprio è venuto senza bene. Mille problemi, sì, esattamente, pulito e sincero così. Vai, e come l'hai cantato a Sara questo pezzo? Si è inserita bene senza problemi? Sì, è un pezzo comunque significativo, nel senso che ha un testo importante. Cosa parla del testo praticamente? Di un cercatore d'oro che ricerca la sua anima attraverso delle città perdute. Certo. Comunque è la situazione di continua ricerca del sé, no? Non è fatto. Vero. Sai, per essere dei pupo. No, scusa. Gelato al cioccolato. No, ma pupo è lui. Sono io, sì, tanto sei anche la cover gelato al cioccolato. Esattamente, questo è molto meglio questo pezzo qua, decisamente. È un po' un titolo un po' Neil Youngiano, un po'. Ma io ascolto Neil Young molto e sono molto influenzata dallo stile di Neil Young, nel senso che mi è sempre piaciuto. Ma si capisce anche dai titoli, sai, dei pezzi. E non sei il primo che me lo dice. Ah, sì. Non sei il primo che me lo dice, perché fatalità. Quando siamo andati a registrare, io avevo in macchina un CD che era Harvest di Neil Young. Meraviglioso. E Luca Tacconi, che saluto, che è colui che insomma ci sta registrando la sotto. Fonico, salutiamo il fonico. E mi ha detto: questo è un pezzo bellissimo, questo è un CD bellissimo e stavamo ascoltando un pezzo bellissimo e mi fa pensare che io lo metto sempre Neil Young quando devo viaggiare, quando devo fare dei viaggi, e comunque mi fa, si sente tanto che ci sono delle influenze nel vostro disco, e io non ci avrei mai pensato, nel senso che non le avrei mai sentite, e quando me l'ha detto ho cominciato a pensare. Sono delle ottime influenze, secondo me. Neil Young è un maestro assoluto, maestro di musica abbastanza quieta, calma, maestro di vocalizzi, cantautore per eccellenza. Eccellenza, maestro di musica durissima, con i Crazy Horse, decisamente. Poi ne ha fatti tante nella sua carriera, tante cose strane, anche cose un po' meno particolari, un po' meno riuscite, esatto. Come quel disco elettronico bruttissimo. Però cose che capitano, si chiamava trance. Ha dato magari sfogo più alla sua creatività, perché tante volte penso che a quei livelli lì tante cose te le impongano. Beh, non penso. Neil Young, sì, può darsi all'inizio, però Neil Young penso che abbia deciso lui di fare. Sì, infatti quello ti dico, cose. Magari ha fatto i primi dischi. I primi dischi, quasi. Magari dicevano cerca di stare su questa linea. Nel momento in cui comunque lui si chiamava Neil Young, e io sono Neil Young, riempio gli stadi, non me ne frega niente di quello che dite voi, faccio il disco come mi pare a me. Certo. Sono ha fatto una cosa del genere, magari poi. Poi di Neil Young, io ho visto recentemente al Geox sempre. Crosby e Nash, e il trio, il quartetto era formato da Crosby, Nash e Young. E Crosby e Nash, quando uno sente le melodie di Crosby e Nash, capisce che cosa vuol dire essere melodia negli anni 60. Ah, capisce, sì. Capisce al 100%. Quelli della mia età, che sono molti giovani, sono ammaliati, affascinati da gente di 70 anni che riesce ancora a calibrare la voce in una determinata cosa. A voce solamente, non c'erano gli strumenti, aveva un chitarrista straordinario, ma non c'erano gli strumenti, c'era solo la voce in quel pezzo là. Incredibile. Dalle nostre parti c'è un gruppo, siamo Carry On, sono in tre. E Carry On è un famoso disco che è, esatto, titolo che fanno proprio una specie di tributo a Crosby, Stills, Nash Young. Sono spettacolari. A proprio di tributo, sono 22:57, abbiamo non solo il 23, ma possiamo accelerare per parlare di cosiddetti dischi da portare su un'isola deserta. Risponderà anche Cristian, anche se ha la tosse, dopo, più tardi. E scoprirete chi tocca nel giro. No, chi è Cristian? Chi è Cristian? Giusto. Chi comincia? Perché Cristian ha una particolarità rispetto a noi che non abbiamo ne ancora citato. Hai i capelli corti. No, non solo. Ha gli occhi scuri. È un'argentina. Bene. Oh, beh. Vabbè, non importa, uno però ha partecipato al progetto. Forza, allora, certo, anche l'Incubus aveva noi al ritmo nel sangue. Esattamente. Allora, comincia, chi comincia adesso per fare il giro dei dischi? Allora, parla mai in ordine. Sì, dai, andate in ordine, vai, tocca a te. Allora, facciamo tre, da che siamo in cinque, quindi tre a testa. Siamo in sei con te. Ma io non posso, non rispondo. Quanto tempo ho per rispondere? Hai qualche minuto. Qualche minuto? No, beh, sarò breve. Dai, in base, ti avvicina al microfono ancora meglio. Okay. Ho l'idea abbastanza chiara. Allora, il primo disco, che è anche quello che mi ispira più di tutti, sì, cioè mi ispira proprio nel modo di suonare, blues. Blues? Le so. Blues di Jimi Hendrix, che è un album che è uscito postumo. Sì, esattamente. Purtroppo tutti gli album postumo di Jimi Hendrix ne sono usciti un sacco. Beh, blues di Jimi Hendrix. Sì, sì, lì ci sono problemi. Beh, lui è... Non posso dire che ha inventato blues, perché il blues parte da uno solo, poi si dipana in altre cose. Però come lo suonava lui, come lo suonava? In modo fuoco, cioè... Era fuoco. Fire. Fire, in tutti i sensi. Senti, Michele, era bellissimo. Beh, è un classico questo, è Joe. Questa. Bene. Però non so. No, no. E dopo il secondo. Beh, dai, dico il terzo prima. Come mai dici il terzo? Il secondo. No, perché si è fatto una scaletta a casa, capito? Che ma chi è a casa, no? Perché il secondo non mi viene, passo al terzo. Vai con il terzo. Terzo è Effect of the Land dei Prodigy. Ah, come i Prodigy? Ami i Prodigy? Non lo so, hanno questo ritmo, questi. Se c'è un impianto stereo decente, mi porto via quello. Sennò... un'isola deserta è un po' difficile per me, so. Ma sai che adesso posso cambiare le palme con la chiavetta USB, sì, esattamente. Argentino ha avuto la risposta migliore su cosa porterei al posto di 3CD su l'isola. Comunque va bene. Sì, non si può dire, probabilmente la risposta non si può dire. Dimmi. Una birra, cosa avete pensato? Una birra, sì. Dimmi Loris, allora. No, il terzo, cioè, che è il quarto? Il terzo. Non te lo ricordi il terzo praticamente. No, il terzo è questo. Il secondo. No, ma perché secondo, penso porterei un album di Eddie Lewis e Michel Petrucciani. Ah, ok. Quindi un po' di jazz, insomma. Live in Paris. Pianista? Sì, un pianista un po' particolare, sì, per una malattia che l'ha portato. Sì, lì. Però un pianista straordinario nonostante tutto. No, ma lì proprio senti il dono. Lì senti, sì, il dono. Vedi che il corpo non c'entra niente. Non c'entra niente. È l'anima che porta. È l'anima, ma poi si sente il tocco, no? Sì. Quel tocco lì è invidiato da qualsiasi pianista, sì, secondo, sì, me, perché è proprio deciso, è fermo, sì, è potente, ha mille colori, mille sfumature. E ecco, per questo lo porterei. Quindi hai scelto i tre dischi. Tu e te, Sara, adesso facciamo il giro. È difficile solo te. Lo so. Ai. Allora, io sparo allora i primi tre che mi vengono in, sì, mente. Porterei The Division Bell dei Floyd. Adesso abbiamo parlato, sì, un momento solo, abbiamo parlato prima a microfono spento, gli ascoltatori non lo sanno, gli ho chiesto a Sara, ma perché Division Bell, che è il post Waters praticamente? Tu hai detto perché c'è Gilmour, che praticamente è il centro di tutto. Esatto, secondo me lui è un artista completo, nel senso che io devo ancora trovare, probabilmente non è un chitarrista eccezionale, ma è classico chitarrista d'atmosfera, no? Cioè lui con delle piccole cose rende grandi le emozioni, uniche sì, le musiche. Sì, sì. Lui è fantastico, cioè secondo me è fantastico. Anche la sua voce, io sono A te piacciono anche gli album solisti, vero? Sì, Floyd. Sì, sì, io amo i Floyd, ma Gilmour ha dato qualcosa in più sempre, secondo me. Ed è entrato al posto di Syd Barrett, praticamente ha sostituito Syd Barrett, praticamente. Esatto. Che Syd Barrett già dal primo disco era già andato. Okay. Già. Il secondo album, prima avrei detto Etta James, che avrei portato Etta James, però pensandoci probabilmente porterei la Holiday, Billie Holiday. Lady in Satin è un album fantastico. Come mai? Cosa ti ha ispirato a musica di Billie Holiday, la voce di Billie Holiday? Ah, lei è grezza, è ruvida, nel senso che non ha filtri, è una donna che non ha mai avuto filtri. Sì, è la sua voce soprattutto, sì. Graffia veramente l'anima quella donna. E poi porterei il Red Album dei Grand Funk Railroad. Ah, come sei arrivato ai Grand Funk Railroad, che è un gruppo, possiamo definirli rock un po' hard, un po' di tutto, insomma, musica potente, era molto famoso negli anni 60, 70, 70, 80, i famosi album rotondi, circolari, ricordi la copertina circolare. Avevo avuto un grande successo. Dimmi. Vabbè, ricordarteli. Li ho visti? Li ha visti, probabilmente. No. Chiaramente lei non era nata ancora. Era lei che li ha stampati quegli album lì. Cosa credi? Di grande successo anche qui in Italia, Grand Fire Railroad. Mm-hmm. Un gruppo veramente tosto, ma non tosto duro, molto accattivante, anche se era musica potente, c'è poco a fare. Tocca a te. Mi porterai via tutte le discografie di tutti. Però vabbè, allora porterai via Tende per Jam. Un momento, fermiamoci un secondo, dopo così diamo Christian si siede. Tende per Jam. Come mai hai scelto Tende per Jam? Non so un altro album di per Jam. Perché è il migliore, perché è l'inizio. È il primo. Loro erano proprio potentissimi. Poi vabbè, gli altri dischi, sarebbe Hild o altri tanti. Ce ne sono, Riotact anche. Sì, ma dobbiamo sentire una cosa, non so se siete d'accordo. I Pearl Jam hanno questa capacità di cambiare sempre il disco, ogni disco. Sì, vero. Non vero, è mai identico al disco precedente. Hanno questa capacità. Forse con Backspacer, secondo me. Sì, sono riusciti qualcosina, ma però hanno sempre delle evoluzioni nel sound loro, a disco dopo disco. E ne ho fatti tanti dischi. Madonna. Decisamente. Quindi Tem di Pearl Jam. Poi? No, porterei via, vabbè, Sgt. Pepper dei Beatles. Beh, perché Beatles, per me, ecco, i Beatles hanno creato. Perché no Revolver o Rubber Soul? Ma perché è stato, penso, il primo disco dei Beatles che ho ascoltato con l'intenzione proprio di ascoltare i suoni, di ascoltare. Che perché è il disco dove erano appena tornati dall'India loro. Sì, esattamente. E poi con tutta la storia sulla presunta morte di Paul McCartney. Sì, e continua ancora libri su libri. Infatti. Ma loro sono stati una trovata commerciale esagerata. Cioè, sì, sono loro. A parte che musicalmente sono dei mostri. Perché anche adesso magari ti guardi qualche partitura di basso di Paul McCartney è assurdo. Esattamente. È assurdo. E dopo quindi la Bibbia del Rock, sì. Eccoli qua, per esempio. Wishlist, pezzo bellissimo. Bellissimo, esattamente. Poi porterei via. Stavo pensando, il primo disco degli Arctic Monkeys. Come mai ti piacciono gli Arctic Monkeys? Che è un genere molto interessante. Sì, ma io sono. Cioè, il primo era molto bello, secondo il primo me. Disco è stupendo. Whatever People Say, sì, Where I Am. Ma sono bravissimi, mi piacciono un sacco perché sono proprio anche loro potenti, però capaci con il cervello. Sì, potenti, cioè, ma capaci anche di melodie, sì, di accattivanti, sì, anche. Sì, anche perché questi riff di chitarra che sono semplicissimi, però spaccano proprio la faccia. Hanno mediato dal beat inglese, chiaramente. Sì. Beatles, Dodge, ci sono sempre i Beatles. Vabbè, certo. Beatles ci sono sempre, sì, nascosti ovunque, non nascosti. Ma anche nei Kasabian, sì, anche in un sacco di gruppi ci sono i Beatles. D'altronde è logico che sia così. Vabbè, certo. Partono tutti da loro. Si cerca di migliorare magari una cosa che comunque hai ascoltato, metabolizzato certo. Un milione di modi. Ok, adesso tocca a te, Christian. Se ce la fai, sì. Sì. Ecco, perfetto. Ciao. Hola. Vicini al microfono un pezzettino. Ecco, vai. Sì, va bene. Sì. Allora, porterei via Whiskey for Breakfast. Sì, quello è logico. Quello è il disco. Dimmi. Allora, due CD di due gruppi argentini che non conosciamo. Non conoscete. Uno a fondo blanco di un gruppo che si chiama Almafuerte, che fanno metal quasi più tranquillo, sì, no? Metal tranquillo, e un altro di Divididos, si chiama Narigón del Siglo, che fanno sul blues rock, più o meno. Sono abbastanza famosi in Argentina questi qua. Sì, sono dei mostri esattamente. E poi una cosa che possiamo capire anche noi adesso, europei, sì, un gruppo spagnolo, va bene, Escapi, e fanno ska, e porterei via il Planeta Scoria, come disco, divertentissimo come disco, tanto per tirarmi su, se sono da solo in un'isola di certo. Ho capito, benissimo. Giusto. Ok, adesso tocca a te, Bomber. Sono rimasto basito dal tuo spagnolo. Sei molto bravo nella pronuncia. Grazie. Prego. Vabbè, allora io porterei via Innuendo. E come mai Innuendo dei Queen? Perché io sono malato per i Queen, proprio. Ma come, il periodo di Innuendo, non periodo prima, periodo del rock? Innuendo secondo me è stato l'album in cui Freddie Mercury si è dato ha dato tutto quello che doveva dare e si sentiva che stava per morire. Infatti se vedi il tatuaggio che ho qua, The Show Must Go On, non è perché penso di vivere poco, ma perché è riferito un po' a Freddie. Poi porterei via People Equal Shit degli Slipknot, lo so che passo da un estremo all'altro, però è stato un album che ha segnato un periodo della mia vita e me lo ascolto sempre volentieri quando prendo a testate qualcuno. No? È un po' duretto, diciamo, okay. Molto duro. Sì, non è per tutti i momenti della giornata, però, però insomma, può capitare. Durati i concerti mentre mi fai coppini. E tu poi... non l'hai visto quando ha sfasciato una chitarra? No, vabbè, ma adesso lo lasciamo stare ben convenevoli. Esatto. E poi è un classico, Finché la barca va, che è... Sì, dopo, Berti, sì, esatto. Sì. No, dopo ho dei punti di domanda immensi, perché sono un grande amante di Johnny Cash, di Uomo Jerry Nero, Lewis, di Nero, ma poi passo anche a Korn, ma anche Queen. Forse porterei via tre album dei Queen, molto probabilmente, perché A Night at the Opera è un album che... Non ami il Queen. Queen all'inizio di carriera erano molto rockettari. No, li amo tutti. Ah, li ami tutti. Tutto per tutto. Soprattutto Freddie Mercury. No, ok. Amo tutti i Queen dal 71. Sì, dall'inizio fino alla fine. Che hanno fatto adesso, qualsiasi album porterei via molto probabilmente. Però forse il live di Johnny Cash in San Quentin sarebbe una bella cosa da ascoltare. Tutti i critici hanno fatto i 500 dischi di Rolling Stone, sai, recentemente, qualche anno fa, e si è piazzato bene. È un disco fondamentale, anche se io amo la storia proprio di quella lì è molto importante, molto forte, cioè, è bello. Ucciderlo a Carsi San Quintino non è una cosa semplice, esatto. Esattamente. Poi una cosa fondamentale che io amo molto, anche i quattro album che lui ha fatto con Rick Rubin, col produttore famoso che lo ha rilanciato, e la versione di One che ha fatto lui, lo stesso Bono ha sempre detto, è più bella quella di Johnny Cash che non la mia, quindi... Ma mi viene la pelle d'oca a pensare. Esattamente, anche a me, quando sento One cantato da Johnny Cash è tutto un altro mondo. Johnny Cash aveva sta capacità di sopperire la sua poca tecnica magari con una voce che... Ti ascolti Hurt. Sì, lui è bravissimo. No. È sempre stato l'uomo in nero, però è sempre riuscito a tirarne fuori da qualsiasi situazione, venite sempre fuori, sempre col suo modo di cantare. Certo. E se è una prerogativa assoluta, quindi quello è una grande stima. Sì. È un grandissimo musicista e sarà sempre un grandissimo musicista. Beh, fanno bene i Queen. Grazie mille. Molto bene, grazie a Michele. Grazie mille. Quando ascolto sta canzone, mi viene da piangere. Sono 23:11, quindi quasi 11. Assolutamente tutto in diretta. Cosa volete fare? Facciamo un altro pezzo dal vivo. Dai, mi piace dire. Facciamo un altro pezzo dal vivo. Sono talmente contento che. Che cosa, ragazzi, adesso? Facciamo un pezzo nostro. Fate un pezzo vostro, dai. Sì, facciamo un pezzo nostro. E questo pezzo è racchiuso nell'EP Whiskey for Breakfast che abbiamo inciso l'anno scorso. Possiamo citare l'etichetta di questo autoprodotto praticamente. Ringraziare David Bonato. La davvero comunicazione, la V-Rec che è sempre sua, insomma, che anche lui ha creduto in noi. Può capitare. Siamo messi bene tutti quanti stasera. Io sono l'unico, a parte il piede, del resto tu stai starnuti. Sono mali di stagione. Poi ci scambiamo tutto quanto. Esattamente. Quindi, tornando a Davide, ti ha dato una mano. Sì, tantissimo. Ma anche lui ha creduto tanto in noi. Ci ha dato la possibilità comunque di farci vedere anche fuori Verona, che per noi era importantissimo. Infatti, esattamente, farci vedere. Abbiamo fatto parecchi concerti da ottobre. Quanti concerti avete fatto? Da ottobre dell'anno scorso abbiamo fatti quasi una quarantina ormai. Parecchi praticamente. Da quando praticamente ci lavoriamo con lui, che è uscito il videoclip, ne abbiamo fatti una quarantina. E adesso fino a luglio siamo pieni, a parte questa sessione di registrazione. Adesso abbiamo Pesaro. Puoi citare le date con calma adesso. Abbiamo il 5 maggio, siamo a Pesaro, non mi ricordo il locale. Milano il 26, poi siamo al Tregnago Contest il 25. Siamo veramente pienissimi. Sì, abbiamo dei motoraduni sempre nelle nostre zone, Verona, il 19 giugno. E c'è 17 giugno. Il 13 maggio anche. Motoraduni, che quelli sono molto belli. Ma sono divertenti perché comunque trovi gente che divide anche la passione per la musica. Che magari molto è musica praticamente. Sì, tante volte magari vai in certi locali dove i gestori si sforzano di far suonare i gruppi live, però se non dai un po' di come si dice, se non dai un po' di cosa al cliente, che comunque c'è il live, cercare di inventiva qualcosa di sì, diverso, cercare proprio di creare una cultura. Esattamente, ho capito. Del live puoi fare quello che vuoi, cioè noi siamo andati a suonare a Mantova pieni, magari locali pieni Sì, non pieni ubriachi, no, beh, insomma. Come l'hai detto? Sì, no, pieni. Mantova si va a Ferrara con i locali, locali pieni. Il disco si chiama Whisky for Breakfast, non pensate male. No, non siamo degli alcolizzati. No, assolutamente, no. Solo il titolo e basta. Esatto. È dedicato al bassista. Esatto. Grazie. No, è vecchio bassista. Quindi è bello, i locali, sì. È bello quando vai in locali dove comunque c'è la cultura per la musica, perché crei un legame con il pubblico. Tante volte capita che ti trovi in certi locali dove proprio non gliene frega niente. Lo so, tu sei lì che suoni e la gente ti guarda e dice: ma chi è sto qua? Tu sei sono d'accordo con te, però l'importante è suonare. Suonare davanti a 5 persone, suonare davanti a 100, a noi non cambia niente. Dovete continuare a suonare lo stesso. E suonare nella stessa maniera, perché sempre, magari la stessa maniera. Perché quelle 5 persone sono venute là per vedere voi, assolutamente. Certo. Anche se sono solo 5, non importa. Cioè, ma anche il nostro modo di vestire, che siamo tutti abbastanza tirati, eleganti. Esatto, vi ho visto al cerchiamo comunque di portare rispetto nei confronti del pubblico e della musica, che per noi è importantissimo. Certo. Insomma. Ok, adesso suoniamo il pezzo. Allora. Questo è Steps. Light through your desire, close, close, close. Radio. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. La Gianluca chitarra acustica, Loris chitarra elettrica, Bomber basso, Christian alle percussioni, non batteria stasera, percussioni, e Sara alla voce. Il pezzo era molto grintoso, anche se questa nella versione acustica era meno grintoso, ma però con la spinta c'è stata in ogni caso. Pezzo molto bello, molto accattivante, che può far muovere la gente, anche se c'è del blues. Qualcuno ha scritto, un critico, l'odore del delta del Mississippi, mi pare che sia giusto. È vero, bellissimo. Una cosa molto positiva. Sì, infatti, cioè, io ringrazierei veramente anche tutti i critici che hanno scritto molto bene di sto disco. Hanno scritto sì, certi magari un po', insomma, meno. Però non negativamente. No, percentuale comunque. Assolutamente è stata una buona, sì, una buona cosa. Per essere il primo EP. Esatto, come primo EP dobbiamo sottolineare questo. Infatti. Penso siate stati molto soddisfatti. Cioè, come da primo impatto. Poi le critiche sono quelle che aiutano a crescere. Certo, non è che sia una scommessa vinta, è una voglia di fare contro tanti ostacoli da superare. L'avete superato, certo, chiaramente. Sì, certo. Ma poi ringraziamo tutti, insomma. Sì, cerchiamo anche noi sempre di migliorarci. A proposito, voi siete stati arrivati dallo studio, oggi siete stati in studio, state mettendo a posto il nuovo disco. Abbiamo cominciato a registrare. Esatto. Che diversità avrà dal vecchio EP? C'è una, si può dire un segreto totale? No. sarà un'altra musica rispetto al primo, perché era il disco di esordio, quindi. Sì. Pezzi già pronti, già sistemati, già fatti sentire, eccetera. Beh, secondo me c'è stata una maturazione da parte nostra, anche proprio l'approccio che avevamo con la musica che facevamo. Magari anche le strutture sono più complesse rispetto al primo, che comunque è abbastanza semplice. Più lavorato, più curato. Forse nel genere saremo un po' più spinti, un po' più aggressivi. Più aggressivi. Vi posso chiedere una cosa? Abbiamo citato il fonico. Chi ha partecipato oltre a voi, oltre al fonico? Vi ha dato una mano qualcun altro nella stesura del disco? È il primo EP. Oppure siete stati voi e basta, è il fonico. Vi ricordate qualche altro nome? Chi ha curato la copertina? Siete di voi a curare la copertina? Sì, no, è stato Andrea Bettega, che salutiamo. Andrea Martongelli, che comunque è il nostro personal trainer anche per il secondo disco. Ah, bene, avete un personal trainer. Sì, sì, direttore artistico dagli Artemis. E poi Fabio Baralta, mio insegnante di chitarra, che comunque anche lui salutiamo. Band, Veronica Marchi. Veronica Marchi è venuta a suonare qua da noi. Bravissima cantante veronese. Che è la sua insegnante. È la tua insegnante. Bravissima. Participerà anche nel nostro disco. Sta qua in anteprima, però non dovrei dirlo. L'hai detto praticamente. E degli special guest anche. Abbiamo degli special guest. Che bello è che di questo disco ci saranno proprio dei special guest di musicisti di Verona. Bravi. Beh, Verona è una piazza importante. Ha prodotto sempre tante cose molto positive. Già agli anni 60 con i Vicoli Miracoli. I Gatti Vicoli Miracoli, famosissimi. Al di là dello scherzo, delle battute, come musicisti non erano mica male. Bravi, chiaramente. Abbiamo fatto un famoso disco che abbiamo anche qua, si chiama Capito, ma non c'era solo Capito, c'erano altre cose molto più interessanti di Capito e altre cose. Beh, in ogni caso, tante band che vengono fuori da Verona hanno fatto certamente una bella strada. Quindi c'è anche Veronica Marchi, che salutiamo. Ciao, Vero. Certo. Che ha fatto un bel disco, che è venuto a presentarlo qua, eccetera. Quello nuovo no, il precedente. Quello precedente l'ha venuto a presentare qua, l'ha suonato qua dal vivo. Bello. Benissimo. 23 e 21, adesso ci riposiamo un poco e sentiamo l'ultimo pezzo che abbiamo scelto da disco. Mi pare l'altra traccia. Questo è il singolo. È il singolo. Siamo arrivati. Adesso poi parliamo del videoclip. Prima lo sentiamo, ok? Ah, allora questa è Lucky. Don't you know? Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, allora parliamo del singolo Sara, con tutti gli altri chiaramente. Questo è il singolo, un pezzo un po' rock and roll, cioè alcuni hanno, non sono stati soddisfatti, come diceva giustamente il Bomb, perché si interrompe la scaletta, cioè il modus vivendi sonoro del disco. C'è un po' diverso, ecco, la traccia un po' diversa rispetto alle altre. Come mai è stata questa idea di fare una traccia un po' diversa? È più pop. Più pop, sì. Rock and roll. Esatto. Pop and roll, ecco, è una giusta definizione. Esatto, no, l'idea era quella di cercare comunque qualcosa di brioso che slanciasse il disco, più che restare sempre sulla stessa linea. Cioè, ora della fine veniamo veramente da musiche diverse, da artisti differenti l'uno dall'altro, anche se magari hanno lo stesso denominatore. Comunque, ci sono tante idee diverse. L'idea è arrivata dal Gian. Il Gian ha trovato fuori un giro di chitarra. Gianluca, cosa hai trovato? Hai detto che l'hai inciso, che l'hai scritto il giorno scritto, di Santa Lucia? Sì, praticamente 20 giorni prima di andare a registrare il disco, che subito volevamo proprio fare una specie di mini EP di 6 pezzi. Però mi è venuto in mente questo pezzo, ho detto, ma sì, chi se ne frega, tanto ormai uno in più meglio, non no? Cambia niente, anzi meglio. E abbiamo detto, facciamo questo pezzo qua, perché almeno è felice, comunque brioso. Sì, un pezzo lucky. Sì, che comunque anche estivo, certo. Quindi magari riesci a piazzarlo meglio e almeno hai anche la sicurezza che più gente ti ascolti. Esattamente. Che magari se fai un genere che non interessa è un po' delitto. Ma adesso lo dice Loris, il resto. Loris, cosa devi dirmi? No, devi avvicinare il microfono però. No, stavo pensando in realtà che il nostro album verte principalmente su due fronti. Uno che è il mio e l'altro che è il suo. Mio Loris, il suo di Gianluca. Cioè, no, ma si sente effettivamente. Le cose due scritte, impostazioni. Sì. Se ascolti bene, si sentono, sì. Il compito è quello di cercare quello che ho scritto io e quello che ha scritto tipo lui. Paul McCartney e John Lennon praticamente. Beh sì, in piccolo, in minuscolo rispetto. E io Orietta. E io Orietta Berti, che sarei io. Allora, adesso facciamo una cosa di questo genere, cioè citiamo, dovete dire ai nostri ascoltatori dove possono, se riescono ancora, a trovare il disco, dove si può trovare, insomma, dove si può cercare. Il disco lo trovate su iTunes. Perché adesso sono esaurite le copie praticamente. Sì, beh, ai live potrete trovare ancora qualcosa. E su iTunes, insomma, cercate, si trova la modica cifra di 4,99€. 5,99€, mi sembra proprio in offerta. Lancio. Non mi ricordo, o forse 9,99€. Ma insomma, entro i 10 euro. Sì, iTunes e concerti, sì, trovate quelle poche copie che rimangono. Ai live vendiamo i CD. Certamente. Poi ovvio che riuscite ad ascoltare i pezzi su YouTube, certo. Li abbiamo caricati e ricordatevi tutti. Di non scaricarli, e anche, non scaricateli, anzi comprate il CD. Piuttosto ve lo regaliamo. Date una mano ai musicisti. Ve lo masterizzo io. Però guardatevi il video di Lucky, che è bellissimo, perché di questo pezzo abbiamo girato un video alle Terme di Giunone a Caldiero, dove fatalità lavoriamo d'estate sia io che Gianluca, il chitarrista. Cioè la Sara c'ha uno spacco bestiale, io guardo il video solo per vedere la Sara con lo spacco. Perfetto. Siamo bellissimi tutti. Io così vanno sulle visualizzazioni. Capito. Quindi avete fatto questo video. E un'altra cosa, adesso riepiloghiamo con calma i concerti prossimi che avete. Eccoli qua. Allora, il 19 siamo a Riva Bar a Trento, a Riva del Garda praticamente, certo. Solo Trento. 21 maggio alla Corte di Cogollo, un pub. E il 5 maggio siamo a Pesaro. 13 maggio a Motor Aduno. 18 maggio in un... No, niente, quella del 18 maggio è saltata ieri. E 25 di maggio siamo al Tregnago Rock Contest, che è il concorso che avevamo vinto il primo anno. Esattamente, che si è ospiti d'onore. Esatto, la prima serata. Il 26 siamo a Milano. Milano, cosa fate? Dove siete a Milano? In un locale probabilmente. Sì, apriamo il concerto anche un gruppo, ma non mi ricordo. Ah, perfetto, va bene. Poi siamo, ma se ci seguono su Facebook, magari lo puoi citare anche il sito. Vengono aggiornati. Sì, siamo su Facebook come The Roadless. Per il momento c'è solo MySpace, The Roadless Space. Space. Quindi su Facebook si può vedere il locale di Milano. Abbiamo tutte le date segnate. Perfetto. Poi ripartiamo a luglio. Anzi, che in realtà ci avrebbero già dato le date a giugno, però non me le ricordo. Quindi, vabbè. Il 7 siamo a un gran festival che fanno dalle nostre parti, della Vesta e Nastoc. c'è il 15, però non posso dirla perché non sappiamo se andiamo. Il 22, positivo, no. E il 22 siamo all'Art Pollution a Valeggio sul Mincio. Sul Mincio, quindi vicino a Mantova. Sì, vicino a Mantova, sì. Bene, un sacco di date avete. Sì, il live è fondamentale per una band. Sì. Più ancora per voi, chiaramente. Abbiamo la fortuna di suonare tanto e da quello che sentiamo i locali sono anche contenti, ci richiamano, insomma. Suonate perché vi state contenti. Divertendo, certo. State divertendo stasera e sicuramente nei live è ancora meglio. Sì, questo sì, è un live, chiaramente un live acustico, ma il live elettrico è ancora più potente, chiaramente. Ma la cosa secondo me che veramente è una figata, si può dire, è che proprio la gente viene coinvolta da quando suoniamo. Ma noi suoniamo proprio per divertirci intanto noi, e poi, esatto. E poi però magari ci fermiamo dopo che ho finito il concerto, ci mettiamo a bere qualcosa con loro, offriamo da bere noi, e tanti amici che abbiamo che vengono a seguirci vengono col pullman o fanno bene. Cioè, è divertente, certo. Vai volentieri a fare un concerto, cominciate ad avere i fans praticamente che li seguono. Sì, vabbè, sì. Venite, esatto, a vederci un po' alla volta. La festa è assicurata, si comincia sempre con poco e poi si allarga. Vabbè, certo, anzi anche troppi. Ok, 23 e 32, adesso facciamo una cosa di questo genere, suoniamo un altro pezzo live e poi vediamo il tempo quanto manca. Intanto suoniamo un altro pezzo live, che cosa? Che famo, Sara? Potremmo anticipare qualcosa del nuovo disco, no? Anticipiamo qualcosa del nuovo disco, visto che avete inciso qualcosa stasera del nuovo disco, oggi, sì. Siete tornati direttamente dal studio di incisione oggi. Siamo venuti diretti, esattamente. Quindi senza mangiare ancora. Esatto. O quasi. Allora, questo pezzo ha bisogno di una premessa: è un pezzo romanticissimo, scritto per un'occasione particolare, dedicato a un'occasione particolare. La Quaresima. Al mio compleanno. Oggi è il compleanno di Gianluca. Ah, auguri, per quello. Gianluca. Per quello, ok, bene. Questo pezzo si intitola Lovers. Ok. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. L'ho ascoltata in macchina. Ok, abbiamo sentito. Benissimo, abbiamo sentito questo pezzo che è molto interessante, perché è nuovo. Io, è la prima volta che è un inedito che ci avete fatto l'onore di un regalo per voi di Radio di Blu Radio Veneto, avete fatto l'onore di far sentire dal vivo stasera. E quindi si parla della svolta, Gianluca, parlavi della svolta col nuovo album, anche se questa è una svolta romantica praticamente. Sì, beh, questo qua è il pezzo più la ballad del disco praticamente. Sì. Poi gli altri saranno un po' più accentuati, dicevi. Sì. Infatti voi magari dopo forse ne sbagliamo un'altra in live così. Come ne sbagliate, ne fate un'altra? Cioè, sì, ne facciamo un'altra proprio così. No, non avete sbagliato nessuna, secondo me. La buttiamo lì proprio senza... Ma quanto l'hai inventato questo pezzo? Avevi qualche giorno prima oppure? Questo qua l'avevo scritto in un periodo particolare mio, l'avevo scritto ad agosto dell'anno scorso, poi l'hai stato nel cassetto? Sì, diciamo che cominciavamo a suonarlo e in vista del disco. Poi insomma è successo un avvenimento che fa bene a dimenticare. Che ha un po' scombussolato le cose. Sì, ma un po' rotto i piani. Allora ho detto, vabbè, via fuori subito, via il dente, via il dolore, ben fuori. Registriamolo. Registriamolo, l'ho registrato subito. Bene. Tipo una settimana da Tommaso Canazza alla Rock Hour. Infatti, bene, salutiamo sia lui che la Sara, che è la sua ragazza. E niente, insomma, abbiamo registrato questa parte in acustico che sicuramente entrerà anche nel disco. Volevamo fare le due, sia la traccia in elettrico che l'acustico. No? Bene, ok. Quindi, insomma. A proposito di saluti, salutiamo la Nicoletta, che è la nostra fedele ascoltatrice. E tu devi salutare un'altra Nicoletta. Due Nicolette, perché le mamme rispettive dei nostri chitarristi si chiamano Nicoletta. Ma non è la stessa, Ma non è la stessa, se spera, insomma. No. La mia è la Nicoletta. La sua è la Nicoletta del caffè, la mia è la Nicoletta del Verona. Ah, perfetto. È la Nicoletta che ci ascolta. Ciao. Benissimo. Quindi abbiamo parlato di questo album nuovo, di questo disco nuovo, e tu hai detto che anche i pezzi nuovi, cioè che faranno parte del nuovo disco, sono stati provati dal vivo, anche quello, dicevi. Sì, anche quelli, non tutti, però non magari tutti. Pezzi, diciamo i primi a venire fuori da noi, già un annetto ormai, forse un po' meno, che li proviamo anche fuori, vediamo che comunque il pubblico è interessato, magari perché comunque sono pezzi un po' più ritmati, più movimentati sì, quindi il lavoro di Bomber e quello di Cristian è essenziale. Beh, quello di Cristian sì, quello del Bomber insomma, dai, stavamo giusto pensando di cambiare bassista. Sì, direttamente. Ricordati che suona sempre dietro di te. Sì, no, infatti adesso copino veramente col ferro. Adesso ti sta scherzando, però è una band rock, il basso e la batteria sono i cardini, fondamentali. No, ma è bello anche perché loro due poi magari, come io mi trovo con Loris fra settimana a provare dei pezzi nuovi, loro fanno lo stesso in cantina da Cristian, non sempre provano magari in cantina, bevono qualche bicchiere. Questo fa parte del Cristian non ha la cantina comunque. In un luogo vi trovate e cominciate a provare il basso e la basso e batteria vanno d'accordo sia musicalmente che anche personalmente, perché amo questo argentino in una maniera proprio quasi come qui. non avete ancora idea di proporre un pezzo spagnolo, visto che Cristian ce l'abbiamo fa parte. Ce avete un pezzo spagnolo? Ce l'abbiamo. Non possiamo fare perché mi manca una corda. Ho capito. Allora adesso abbiamo circa un quarto d'ora, allora verso la fine del programma io proporrei, intanto facciamo un altro pezzo live che fa bene. Ci siamo dimenticati di dire che il singolo trovate su YouTube, andate a vedervelo, dobbiamo dirlo, The Roadless Lucky, lo trovate su YouTube a Nastro. Ricordiamo anche un'altra volta il video, chi è stato girato, il regista Elia Turra. Che sicuramente lavorerà anche per i prossimi videoclip. Esattamente. Che idea avete per i prossimi videoclip? Sinceramente non lo sappiamo, perché adesso che siamo in studio, di solito il singolo esce in studio. Ah, ho capito. Quando abbiamo il singolo, da lì parte un'idea che si lavorerà col regista e con la parte artistica. Poi è bello perché noi magari ci mettiamo la sera, tipo, non so, a casa del Bomber, così ci guardiamo sulla mega TV computer. Quelle taverne, mi parla anche. No, però è bello. Cioè, ci guardiamo i videoclip, magari di vari artisti che ci piacciono. Dà ispirazione. Sì, cioè, sì, infatti. Vedete, insomma. Infatti, tipo anche gli OK Go, che io consiglio di vedere i videoclip perché sono eccezionali. Sono dei geni. Sono mondiali. Un video. Quello storico con i tapis roulant, vabbè, dopo da lì. A costo zero, però fanno i capolavori. Quello con i cani. Però vabbè, fa una roba del genere è troppo. Ok, suoniamo che cosa adesso? 23:41. Sì, sì. Dai, facciamo. Allora, facciamo un'altra anteprima. Un'altra anteprima. Benissimo, un disco, un pezzo assolutamente nuovo. Pezzo assolutamente nuovo. How many times? Diceva cambia poco, però è cambiato parecchio questo duetto, questi tre momenti: basso, la chitarra di Gianluca e la batteria di Cristian e il basso di Bomber davano un certo senso alle cose, molto divertente, molto accattivante questo pezzo. È la linea nuova, vostra risposta è proprio la linea nuova Far divertire. Loris non era molto contento perché stava fermo un secondo mentre loro cambia poco, hai detto. No, ma mi diverto talmente tanto che a volte lasci. Sì, è bello anche fermarsi e ascoltare che band c'è. Sì, no, ma di solito lui, quando ci sono i momenti morti dove lui non suona, prende e va al banco e comincia a bere. Sì, sì. Per la disperazione. Acqua naturale Coca-Cola. Ordino per tutti. Ok, quindi abbiamo detto, questo è un'altra apertura, un'altra, cioè sì, in continuo movimento avete creato qualcosa di diverso e state portando avanti, anche se chiaramente questa è la versione assolutamente acustica, poi certo, la versione certo. Da disco sarà diversa, sì, la elettrica più... Però questo duetto fra due chitarre e con l'inserimento della batteria e questa fermata di Loris mentre la voce di Sara continuava era interessante, era piacere, era una bella, secondo me una bella intuizione. Cerchiamo tanta dinamica in questo disco qua, quindi magari proprio cercare che le cose siano fluide, però anche magari fermandosi magari uno, in certi pezzi mi fermo io, in certi si ferma lui. Ma questo è un modo alternativo, cioè in un mondo dove tutti cercano di fare il più note possibile, immaginabile, esatto, per far vedere quanto sono bravi, e io mi fermo. Certo, hai ragione. Ascolta quanto è bello il silenzio a volte. Poi c'è una recensione molto, secondo me, molto interessante, si parlava del passato. Di Moreno Lissoni, lui scrive: mentre secondo Moreno questi ragazzi hanno passato l'adolescenza ascoltando i vinili dei loro genitori, dai Creedence, dai Jefferson, ai Rolling Stone, mentre i loro colleghi, i loro coetanei andavano al Festival Bar a Verona. Sì, è una cosa positiva questa. Sì. Cioè niente contro il Festival Bar. No, certo, assolutamente. Però sai, anche se al Festival Bar arrivavano i grandi nomi, anche se cantavano in playback, anche se l'ultimo anno poi hanno cominciato a cantare dal vivo, però è un'altra cosa. Infatti, sì. è a tutto volume i vinili dei loro genitori, era così anche per voi? Sì, abbastanza, sicuramente ci ha dato una mano i vinili dei nostri genitori. Non tanto, ma no, per me mio papà era un partito dei Pooh, quindi va bene. Rispetto ai Pooh, cioè, Parsifal dei Pooh è un capolavoro. Dimmi, Parsifal dei Pooh, sì, è prog, un'opera rock, un'opera rock prog, assolutamente. Beh, ricordiamo che la prima strumentazione dei Pooh era mediata da quella di Pink Floyd, l'avevano presa da loro, quindi insomma, per suonare sapevano suonare. Dopo, chiaramente i tempi passano, i dischi sono tutti uguali per tanto tempo, troppo tempo, certo. No, anche perché i Pooh dovrebbero essere uno dei gruppi più vecchi italiani, cioè dagli anni 40 anni 40 perché ho guardato uno speciale praticamente sì, con la formazione chiaramente diversa, però dall'idea del nome sono susseguiti diversi. Beh, io ricordo, cioè i Pooh hanno cominciato al 62 63 64, sì, con Riccardo Fogli. Ma prima ancora c'era Valerio Negrini che suonava la batteria, che ha scritto parecchi pezzi famosi dei Pooh. Poi è stato il membro che è andato via dei Pooh e è rimasto Riccardo Fogli, che poi Riccardo Fogli l'ha detto recentemente in un'intervista, poi ha trovato una donna fatale che era Patti Pravo e ha lasciato la band e è venuto Red Canzian, che qui abita qui vicino di Mogliano. Quindi i Pooh è un gruppo longevo, il gruppo più longevo sono i Nomadi, però Nomadi di Augusto, che purtroppo Augusto se n'è andato molti anni, adesso c'era Daniele Sacco e poi hanno cambiato cantante. È andato via l'anno scorso è arrivato un cantante di Padova e quindi comincerà la tournée con il nuovo gruppo, col gruppo dei Nomadi con un nuovo cantante che è di Padova. Adesso il nome non me lo ricordo, però è proprio una fresca novità. Bene. Però io vi auguro molta vita, molta lunga vita come speriamo, i Nomadi e come i Pooh, chiaramente. Speriamo. Anche di far meglio. È anche di far meglio. Sono le 23:49, abbiamo circa 10 minuti, no, meno di 10 minuti, abbiamo 5 minuti per concludere e per salutare tutti i nostri ascoltatori. Ripetiamo un'altra volta, dove si può trovare il disco? Vai. Allora, il disco lo trovate su... Il titolo del disco? Ah, il disco si intitola Whiskey for Breakfast, è un EP di 7 pezzi, lo trovate se lo volete ascoltare su YouTube, però lo comprate su iTunes, se volete venire a trovarci in live, le date ve le abbiamo dette, insomma suoniamo vicine e distanti, verremo a suonare anche a Padova presto, spero. Esatto, suoniamo tanto, quindi prima o poi ci beccate. Esatto, su Facebook trovate la nostra pagina. Cliccate su mi piace, così spiate le date, spiate le novità, quello che facciamo. Il videoclip è Lucky, The Roadless Lucky, su YouTube, dove potrete guardare anche lo spacco della Sara. E la pettinatura del Gian. E poi la chicca. Una cosa volevo chiedere in chiusura. La vecchietta che c'è in copertina, dove l'hai tirata? Bellissima, questa è un'idea del signora anziana. Quella è un'idea del fotografo. Chi è il fotografo? Il fotografo è Andrea Bettega. Ci ha fatto le foto e ha seguito tutto il discorso di booklet, tutto quanto nel disco. È un grafico bravissimo. È la nonna di una sua amica. Ah, bello. E gli ha fatto una foto, l'ha vestita proprio da nonnina rock. Rock, esatto. Gli ha messo su un vassoio un bicchiere di latte e una bottiglia di whisky. Proprio il vecchio rimedio della nonna, di una volta. Latte e grappa, no? Esatto. Noi latte fa whisky. Bene la salute. Esatto, cicchetti e via. E così è finita in copertina col suo ghigno da nonna. Esatto. Che poverina anche lei, cioè, da ringraziare, perché ci faceva: oh, mi raccomando ragazzi, non mettetemi parte nel CD, però non fate manifesti, cose così. Noi prima l'abbiamo fatto un manifesto enorme, un manifesto, scusa nonna Maria, tre metri, e tutti quanti la guardano, dico: ah, bello, che gnocca, che deve essere stata, no, questa qua una volta, nonnina. No, bella, sì, bella, bella, molto, molto positivo, molto divertente, fatto, sì, bene. Ok ragazzi, abbiamo finito, io vi ringrazio di queste mille, quasi due ore di live. Grazie a te, grazie a te. Anche Michele in regia, grazie, grazie. Michele, un grande ritorno del mitico Michele. Spero ritorni ancora, chiaramente, non solo momentaneamente. Sì, non si sa, però le vie della musica sono infinite. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie Maurizio. Vi ricordo, domani sera abbiamo una puntata particolare, Giovedì Santo con Sabba De Rossi. Grazie ai Rodless che ci propongono stasera, per concludere, proprio Whisky for Breakfast. Ok, buonanotte a tutti e grazie. They say, drunk you can